All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. Ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Visitate www.bach.it, cliccate la cena dei regini e commentate a cena@bach.it questa splendida trasmissione. Questa sera è una trasmissione tutta green, parleremo di ambiente e tutela dell'ambiente in maniera molto particolare. Ma adesso concediamoci un breve spazio musicale. I want you, baby. I want you, baby. I want you, baby. Yeah, yeah, no preacher, Danny Tarantino sul beat. DLT Clan. I want you, baby. 2013. Yeah. E chimica, chiedendomi ogni giorno che significa. La mia medicina è questa musica che si libera, libera, che si abbina alla mia vita ibrida. Da peccatore so, tradisco la mia umanità quando fra le mani ho l'iPhone, right on time. Più colpi di parole che in un film di Muay Thai. Ai ai, it's a family affair. Non ti offendere, ho fretta di andare, che c'ho faia. You don't fuck with me. Militanti della vita hardcore con connotati strambi e la Jeep. In giro ci guardano e pensano, ma che cazzo saranno sti qui? E chi si credono? Io con Daniele senza freno, no. Voi che volete, oh, non ci reggete, quindi preferite indicarci come il male che non ammettete in voi. You know, no breeze, Dani Tarantino, DRT Clan. Yeah, noi non ci ammazzate, you know. Yes. Fratello mio, piuttosto che restare in bilico, su questo gioco punto tutto e fino all'ultimo. E prendo fuoco, arde core su sto fuoco. Qualche grammo di skunk, sto mondo è sloco. Ricordo quando si suonava punk, poi dentro il walk c'era il quinto dan. Underground e l'underground, mentre si evolveva il sound. RT è l'evoluzione della town. Adesso qua c'ho troppi cazzi per la testa. Era meglio quando si partiva in vespa a scollettare per la benza e la birretta. Non c'era la lira in sacchetta, mi bastava solo sulla faccia l'aria fresca. Una vita perfetta, non per l'apparenza. Lo stile va oltre la tendenza a rimanere in piedi. Devi dare da mangiare alla tua incoscienza e pensa e ripensa. Ragazzi, la cena dei regini, bentornati alla nostra tavola e soprattutto adesso andiamo a parlare di quello che è accaduto in questa settimana all'House e dintorni. L'House ovviamente sempre tra molte virgolette perché continuano i lavori di ristrutturazione della struttura. Oggi tra l'altro abbiamo iniziato a mettere la pavimentazione nuova, una cosa straordinaria. Il cantiere è fatto. Però ora sì, è un work in progress. Beh, allora ce la stiamo per fare. Sì, ci arriveremo. Ce la possiamo fare. ci arriveremo, ancora c'è qualcosina da fare. Però abbiamo alzato un altro muretto proprio oggi, quindi grande soddisfazione anche dei ragazzi che stanno lavorando al cantiere. In più in questa settimana ho fatto un po' di incontri in giro, anzi approfitto per salutare tutti i lavoratori e le persone che ho incontrato in piazza e eventi vari a cui sono stato modestamente invitato. E in più ragazzi abbiamo ricominciato il gioco di ruolo da tavolo, l'ARS, liberamente scaricabile da ars-rpg.com. Siamo tornati a fare le nostre giocate settimanali, grande soddisfazione, grandi colpi di scena, grandissimo Ulfric, grandi scelte, il suo personaggio. Quindi il gioco di ruolo, questa cosa, questo evento in cui ci si riunisce intorno a un tavolo, ognuno interpreta il suo personaggio, grazie a questo regolamento comunque tutto molto semplice, infatti anche Eugenio nuovo a questo genere, ti sei divertito, cioè è stato tanti colpi di scena. Tanti colpi di mano. Vabbè, diciamo che comunque il manuale è davvero semplicissimo, perché comunque è un foglio a 4 stampato su due lati, niente di più, niente di meno. Molto veloce. E loro sono riusciti a non leggerlo. No, le tue regole, queste regole, vi licenzio. Lui non ha letto, io lo so assolutamente. Andrea è nato già col regolamento installato in testa. Allora, a parlare gli animali, vai. Ma ragazzi, soprattutto quello che cerchiamo sono sempre nuovi giocatori. Se ti vuoi dilettare nel gioco di ruolo, se vuoi interpretare un personaggio, vivere un'avventura fantastica, devi contattarmi ai bacchiocelbacco.it oppure sul sito direttamente dell'ARS e organizzeremo delle serate di gioco a cui potrai partecipare anche tu. Non vedo qualche ragazzo, magari fa persone stile Xena, la guerriera. Esatto, ma non siamo tutti così. No, scherzo. Non ovviamente siamo tutti aperti anche alle presenze femminili, nessun problema, è molto semplice giocare, quindi comunque ci si può dilettare tutti, anche chi non è pratico, sia uomo che donna, al gioco. Tra l'altro, gioco che organizziamo anche in versione gioco di ruolo dal vivo, nelle serate di gioco di ruolo dal vivo, e quindi che riprenderanno a breve con la fine dei lavori all'Aus. Ragazzi, continuate a seguirci, iscrivetevi anche alla newsletter sul sito ilbacco.it, iscrivetevi al canale, le notizie, al canale YouTube, sperando che continuate a vederci anche in via video, che è una visione di cui non ci si può assolutamente privare. No, assolutamente. Anzi. Non volete mettere non vedere Eugenio, guardatelo. Adesso... oppure Andrea senza occhiali, guardatelo. E adesso, per rifarvi la vista, un piccolo spazio musicale. Life here is a little too quick for me. Maybe you think you're fast enough to keep up with us, huh? Ragazzi, la cena dei regini, bentornati, yes. Questo è il nostro angolo delle notizie, voi intanto commentate a cenagliocelbac.it tutto quello che ascoltate o vedete su YouTube di quello che stiamo combinando a questa cena. Adesso l'angolo delle notizie, ho scelto anche qualcosa, visto che la scelta delle notizie lo consentiva, qualcosa mirato al green, all'ambiente, con notizie abbastanza particolari. Innanzitutto una... notizia non più recentissima, perché già questa cosa gira da un annetto circa, basta una bottiglia di plastica, acqua e candeggina per creare una luce a costo zero. È l'invenzione di un brasiliano, Alfredo Moser, che addirittura nel 2002 studiò questa soluzione. Praticamente bucano il tetto di quelle baracche che usano loro, infilano mezza bottiglia di plastica riempita con acqua e candeggina, il riflesso del sole permette di avere una luce costante e anche di un certo livello, perché si parla tra i 40 e i 60 watt a costo zero di giorno. Certo. Bene. Medinense. Ah, quello sicuramente. Perché loro vivono in queste baracche all'interno del quale non c'è mai la luce, quindi per loro è una grande grande innovazione, una cosa molto particolare. E poi voglio dire, se in futuro ci sarà anche la versione by night, tanto inventata con la luce lunare, ma me la metto all'osso pure nel giorno. Ma un'invenzione altrettanto simpatica, molto più recente, è questa di Dylan Winter, questo simpatico anzianotto, cioè non più giovanissimo, che spiega molto facilmente con una forma per fare i pancake, due candele e due vasi di terracotta, come crearsi una stufa che permette di comunque scaldare una stanza con veramente pochi centesimi. Quindi una soluzione molto facile: si accrocca la forma del pancake e due vasi sopra, in mezzo si mettono queste candelette accese, candeline piccole che si trovano a 4 centesimi ovunque, ed effettivamente pare che funzioni, si crea una piccola stufa con un materiale poverissimo. Sì, si ottimizza comunque il calore prodotto dalle candele per riscaldare la stanza. E poi si vede che i vasi mantengono anche il calore lo diffondono, e quindi è una cosa assolutamente da tentare, visto l'inverno che arriva e poi anche la crisi che avanza. Quindi anche questo c'è da dire, può essere sempre utile. A proposito di crisi e di spese a costo zero per una casa, queste erano soluzioni al dettaglio, ma è possibile anche creare una casa a costo quasi zero. Con 180 euro ci è riuscito Michael Buck, che non è mio parente, 59 anni, il ragazzo ha usato solo materiali o cose buttate nella spazzatura per costruire la sua Cob House, questa casetta in legno, pannocchie e altri materiali che ha trovato in giro, tra l'altro molto carina, somigliante vagamente, soprattutto l'esterno, a questa casetta Hobbit, perché la si vede che si è rispirato. Così fare in questo modo la house. Magari non bastavano le pannocchie. Altrimenti era l'ingrediente che mi manca. No, l'ho usato veramente pannocchie, resina vegetale e quant'altro, ho messo tutto assieme e ho creato questa casetta. In questa casetta, tra l'altro, non vive lui, ma un operaio di una fattoria vicina che paga l'affitto con il latte. Spettacolare. Quindi è tutto molto agricolo. Anche perché, voglio dire, quando costruisci una casa con 180 euro, che affitto devi chiedere? È tutta rendita. E quindi pagare in latte, anche questo è la genialata nella genialata. Ma comunque leggevo tempo fa che le nuove fibre, specialmente sul mais, sulla canapa anche, stanno sfruttando tutte queste nuove fibre per creare materiali nuovi e diciamo andare a restringere un po' quello che sono i costi di costruzione, senza però perdere la solidità di una casa. Ora, questa non so sinceramente quanto può essere solida, però sinceramente dalle immagini non sembra proprio una baracca, sembra fatta abbastanza bene. Grazie alle, dice qui, ha una stufa a legna per riscaldarsi all'interno dell'abitazione, e, oltre a tutti gli ambienti, le pareti sono fatte in pannocchia e il letto in paglia, e la casa è comunque ben isolata anche per questo, per questi materiali. Tra l'altro è simpatico perché le finestre le ha fatte con il vetro il parabrezza di un vecchio motocarro che lo ha tagliato e si è fatto le finestrate. E le assi del pavimento sono state abbandonate da un vicino e lui le ha prese e le ha utilizzate come pavimento, quindi tutto riciclato, tutto costo zero quasi, e il ragazzo ha tirato su questa casuccia. Interessante, pensateci. Eugenio, un futuro da... da imprenditore edile. No, imprenditore edile perché? Da eremita in una casa fatta di pannocchie. Cioè, non è bellissimo? Non ti ispira questa cosa? Gioventù bruciata, andiamo avanti. C'è un allarme, l'allarme non è solo su questi giovani. Ma anche l'allarme, maltempo che c'è stato in Calabria in questi giorni, vero o falso, c'è stata una grande discussione, annunciato come la tempesta perfetta, comunque a ragione ha fatto tanti danni, però altrove sì, ed è assolutamente da denunciare il fatto che non sono stati pochi i gruppi di sostegno alla tempesta contro i calabresi. Anche qua ci vorrebbe un premio naso special per questa cosa. Posso insultarli? Bastardi! Hanno fatto vari gruppi che incitavano la tempesta a distruggere le città, a inondare. Perché tutti del nord, immagino. Tipo uno del nord che si dice inonda la, vai tempeste, fai inondare la casa di Andrea. Così, ho capito. Grazie. Pensa, cosa grave, forza Ionio, non ci deludere. Non ci resta che sperare nel Maironi. Incredibile. Cose da pazzi, veramente. Cose da pazzi. Cioè, io non credo che nessuno davanti magari ai terremoti degli anni scorsi si sia mai. Sì, invece succede. Sì. È successo sia per un episodio del Vesuvio a Napoli, e mi sembra la Lega fu a mettere i striscioni. Sì, appunto, io dicevo proprio quando è stato il terremoto a Bologna l'anno scorso, due anni fa. Modena. Cioè, non penso a nessuno da Reggio Calabria, no, da Messina, non siamo così. Dalla Puglia abbia detto speriamo che si riporti non da siamo così. È sempre un episodio, non siamo così, cioè, capito? Nord contro è quella la questione. Cioè, sembra che uno in questo caso faccia i soliti discorsi, ma il sud, il nord, però a quanto pare queste cose succedono e succedono sempre in una direzione. C'è da chiedersi anche il perché. C'è da chiedersi anche il perché, però forse abbiamo una mezza idea, una mezza possibile indizio, cioè a sostenerla Eugene McCurdy dell'Università della Georgia. E lui ha fatto questa teoria, questa ricerca, che è alquanto una ricerca shock. La specie umana è iniziata dall'unione tra un suino e uno scimpanzé. Ragazzi, ricerca shock, Università della Georgia. Questa unione tra suino e scimpanzé avrebbe generato la razza umana. Certo. Tra l'altro, per come l'ha spiegato lui, è anche plausibile. Perché? Perché? Vediamo, la voglio sentire questa spiegazione. Dai, non l'ho letto. Vai. Sì, stronzi. Non l'ho letto. Assolutamente. Abbiamo in comune sia molte parti, tra cui anche più o meno l'anatomia con gli scimpanzé, ma anche e soprattutto con i maiali. Ad esempio, abbiamo uno spesso strato di grasso sotto la pelle. Che più che meno. Scusa, la coda riccio ce l'ha la coda riccio lì. No, abbiamo la coda lunga delle scimmie. Il grasso. Poi la formazione dell'organismo, degli organi è molto simile a quella dei maiali. Certo. La pelle senza pelo, comunque. Abbiamo molte cose in comune, sia da una parte che dall'altra. Forse di sbaglio. Vabbè, ma c'è anche il pelo di scimpanzé, cioè nel senso si bilanciano le cose. Ma non può essere soltanto che lo scimpanzé, dico X, che si è evoluto verso nella direzione dell'uomo, ha trovato delle caratteristiche evolutive simili a quelle del maiale, tipo per proteggersi dal freddo, una cosa che lo scimpanzé non ha, cioè il grasso sotto la pelle, l'hanno sviluppato tutte e due le razze, cioè indipendentemente. Ma dimentichi senza essersi per forza accoppiate tra di loro. Niente, che gli ominidi provengono dall'Africa. Ma si sono spostati? Sì, ma gli ominidi, il proto umano proviene dall'Africa. Dove c'è freddo, ma non c'è tanto freddo da dover da richiedere uno scarso stato di grasso come quello di maiale. Di giorno? Perché di notte sì. Eh sì. Temperature, c'è una temperatura. Ragazzi, è un fatto anche di momenti, di ere, capite? Quello che magari andava un po' più, era un po' più ricercato in altri momenti, ma adesso sì. Diventa un po' guardare le donne di Playboy degli anni 70, tutte peli e via dicendo, e guardarle adesso, cioè è molto diverso. Magari una volta il suino tirava di più. Certo, poi non si butta via niente. Questa è la cosa. Vabbè, è comune. Lo scimpanzé in Africa ha detto: non si butta via niente. Ha gradito, e da lì provengono quelli che aprono i gruppi su Facebook. La Calabria non si sa, ragazzi. Si fa, altrimenti. Peccato che non c'è un nominativo, altrimenti un premio naso qua ci sta. Sì, infatti. Ragazzi, voltiamo un attimo pagina, passiamo adesso all'angolo rapidamente della tecnologia, perché è importante dire che finalmente arriverà sul mercato anche in Italia il primo smartphone con il sistema operativo Firefox, creato da Mozilla, quindi una cosa innovativa basato su questo sistema Firefox OS, che quindi andrà, diciamo, a creare un'alternativa ai vari sistemi Android e smartphone Android. Il prezzo assolutamente accessibile sarà di 80 euro circa, un display piccolino, fotocamera accessibile 3.2 megapixel. Però è carino comunque il fatto che si crea un'alternativa, e poi ha anche un aspetto particolare, giovane e gradevole. Per quanto Windows, comunque, con Windows Phone sta recuperando un po' di punti su Android, ma penso più che altro come per una promozione di marketing sulla vendita dei terminali. Sì. Firefox potrebbe ritagliare comunque una fetta di mercato, se comunque mantiene i prezzi bassi. Come caratteristiche tecniche c'è qualche specifica? Il processore, RAM richiesto? Questo no, però display 3.5 pollici, quindi piccolino, ovviamente sarà un modello da battaglia, da iniziale, per iniziare. Fotocamera appunto 3.2 megapixel, che non è eccessiva. Una micro card da SD da 2 giga incluso, quindi comunque un terminalino abbastanza. C'era qua anche la foto, che però adesso non riesco a trovare in casa. Sarebbe, però se si mantiene comunque su caratteristiche tecniche basse, sicuramente ti farà strada, perché sì, adesso Android per esempio richiede comunque delle caratteristiche molto alte. Abbiamo telefoni quad core con magari 2 giga di RAM. Cioè non ha senso, quasi, se pensi che ci sono computer che girano un Windows e hanno un dual core magari, o un Atom, un Tel Atom ancora più lento. Quindi avere un sistema che ha bisogno di meno caratteristiche, risorse, sì, è importante, e ne giova la batteria. Punto critico per gli smartphone. Stavo dicendo, farà la grande differenza. Poi la mia impressione è che vogliono puntare un po' all'entry level del mercato, perché appunto gli hanno dato anche questo look abbastanza accattivante, che sarebbe questo qui, tutto in stile Firefox, a partire dalla cover arancione che riprende le il pelo della volpe, via dicendo, quindi comunque può essere una alternativa interessante. E poi l'importante secondo me è che ci siano sempre alternative, in maniera che ci sia, sì, ultimamente Android ha un po' monopolizzato un po' tutti i settori. Ultima notizia, decretiamo un po' la decadenza del PC tradizionale, che segna una vendita in calo del 10%, addirittura il vecchio caro PC di casa, quello là da salotto comunque che tenevi nello studiolo, sta andando a scomparire. Un vero peccato, perché comunque chi come me era legato ai modelli classici, è una brutta notizia. Poi la cosa bella di quel PC era che te li aprivi, te li smontavi e facevi quello che volevi, sì, è facile da pulire anche all'esterno, sì, all'interno compressore, fidati che non con me la soffiata e via. Però era bello il fatto che erano totalmente personalizzabili, sì, quindi alla fine potevi, sia per un fatto di acquisto sia per poi la gestione del computer, era totalmente alle tue mani. Questa è una cosa bellissima. Però ragazzi, fateci sapere il vostro accesso al cosa avete fatto per da un punto di vista ambientale green, una cosa che vi ha un'idea per una casa verde anche. Se avete fatto casa vostra con pannocchie, fatecelo sapere. Se siete riusciti a fare la casa con le pannocchie, venite anche ospiti. Con che prodotto naturale avete pagato, cioè, oltre al latte? Non è bello. Non è bello. E adesso un piccolo spazio musicale. Buscando la frescura sentada en el alba, se asoma la firmeza de tu mirada. El cielo se hipnotiza con tus palabras, se mueren las fronteras de mis pisadas. La brisa se contagia con tus pisadas. la cena dei regini, ragazzi, bentornati. E soprattutto adesso passiamo all'angolo più seguito dalle casalinghe di Rand, vicino a Cosenza. Ah, buono. Che salutiamo. Ciao. Passiamo alla nostra classifica che descrive le 10, gli 10 elementi fondamentali dell'alternativo regino. Perché comunque il regino ha questo ambiente fortemente alternativo. Sì, da capelli lunghi, sempre vestiti di nero, da magliette stravaganti, che schifo. No, questi sono luoghi comuni, noi dobbiamo definire esattamente i dettagli particolari dell'alternativo regino. Il regino, quello là che vive anche molto nel mondo green, che molto punta alle scelte verdi, che vedremo qui. Allora partiamo dal numero 10, elemento fondamentale nella vita dell'alternativo regina, il Moleskin, quel libretto abbastanza semplice, come sì, dire, sì. Nell'aspetto essenziale. Essenziale e compatto, a righe e a quadretti, non importa. L'importante è che sia sempre pronto lì con l'elastichino a prendere nota di tutte le esperienze di vita e delle riflessioni filosofiche dell'alternativo regina. È importantissimo. Sì, voi, sì, voi ne avete uno sicuramente. Tu, no, lui sicuramente. Con la mia opinione. Come... Non siete per niente alternativi, ragazzi. Non hai il Moleskin? Cioè, io me lo sono portato in viaggio, non Moleskin perché costa un botto, però il finto Moleskin. Finto. Il simile Moleskin. Era sfortunato. Però sì, è bello, voglio dire, sei in giro. Beh, certo, a Reggio, non so. Quanto... E funziona anche il finto. Sì, sì. Cioè, la dissertazione filosofica non funziona. Non sei abbastanza scusa alternativo, la mia, però. Scusa la mia ignoranza, nel senso che ignoro. Che è sto Moleskin? Allora è un quadernino così, massimo così, grosso così, proprio 4 pagine. Avete capito in radio questa indicazione? Esatto. Vai. Piccolo, se non l'avete capito, piccolo, andate su YouTube, guardate il video, c'è Andrea che spiega. Ragazzi, che puntata. Comunque un quadernino e costa 12 euro a pezzo, il più piccolo costa 12 euro. Cioè, praticamente tu te ne compri 10 di quelli Pigna o qualunque altra distributrice. No, esatto. Tu però, niente, no. Ed è essenziale per annotare le esperienze di vita e le dissertazioni filosofiche. Anche la versione quindi alternativa a sua volta funziona. Sì. Ed è una cosa ti fa ancora più alternativo. Perché sì, sei alternativo. Fantastico. Alla numero 9, ragazzi, imperdibile, il giornale infilato nella tasca posteriore. Non diciamo quale giornale sia, non diamo no. Direttive e indicazioni di carattere politico, però il giornale infilato nella tasca posteriore dei pantaloni è un classico, perché rappresenta l'alternativo regino che non ha, cioè, si vuole informare ma non ha tempo, deve, è molto smart, è molto green appunto, e quindi si porta il giornale, però deve far vedere qual è il giornale. Quindi mi raccomando, titolo rivolto verso ovviamente, chi c'è dietro, bisogna manifestare le proprie idee, quindi ecco. Giustamente ci vuole il titolo, che tra l'altro io ho sempre pensato scomodissimo, perché è una cosa che è abbastanza innaturale, però d'inverno dà anche l'effetto calore, perché il giornale certo trattiene. Però se lo metti dentro la maglia, tipo quando andavamo in motorino, non si vede il titolo, e come fai? Quindi meglio dietro funziona, come davanti funziona, il motorino funzionava. Quindi in alternativa sia il giornale per dare questo effetto, effetto estetico, oppure effetto funzionale, riscalda posteriori. Ma l'alternativo regino sicuramente lo fa solo per la questione funzionale. Certo, è quello, riscaldare il posteriore, che è importante. Una parte. Perché dei sottodettagli, voglio dire. Ragazzi, numero 8. Fondamentali, icona degli anni, soprattutto 90, per chi ha letto una certa serie fumettistica, le Clarks, queste scarpette molto disinvolte, molto giovanili, molto così, davano quell'effetto chic ma trasandato, che comunque all'alternativo regino piace. Ecco, decisamente. Ma sinceramente, Sono orrende. No, ma adesso sei vanno poco agli stessi livelli dei mocassini. Adesso dai, vanno, vabbè. Aspetta, le Converse color giallo evidenziatore o verde evidenziatore ancora peggio, con i pantaloni marroni o militari. No, marroni per le donne. Perché tu pensi che tu quando vedi una persona del genere pensi a uno stronzo con un evidenziatore in filo di Esatto. Solo a quello riesci a pensare. Vedi, quando io gli dico, mi raccomando ragazzi, contenere sì, tante sì, cose, mi raccomando. Sì, ragazzi, ho veramente... Però è colpa mia, perché io ho detto, mi raccomando, niente doppi sensi. E quindi... sono battute proprio esplicite. Benissimo. Andiamo. Ed erano le Clerks. Siamo ancora alla numero 7, io voglio vedere... ragazzi, andiamo avanti. Alternativi, regini, gli elementi che non potete assolutamente, di cui non potete assolutamente fare a meno, questo è un classico. Il vinile, sì. Il vinile, ragazzi, la musica numero 7, il vinile, la musica si ascolta rigorosamente nel vinile. Quello grande, scomodo, fatiscente, quello come dire, fragile, però è il vinile, è questo tempio della musica portatile, il vinile, come dire, proprio attestare la tua gratitudine alla band per esistere, e quindi bisogna assolutamente utilizzare il vinile. Che poi magari non c'è il giradischi a casa, però è il vinile. Ti scarichi un MP3 per ascoltarti. La cosa perché l'MP3 è il backup del vinile. Ah, ecco, certo. E se rovina, così. E si rovina. Vuoi rovinare un pezzo d'arte con il vinile? Su questa cosa del vinile c'è stato tempo fa anche un dialogo in rete, perché giustamente quello che dico io è: ok, il vinile come dire, oggetto che manifesta un certo tipo di un ricordo storico, sì, e via dicendo. Sì. Però non si può negare la comodità dell'MP3, soprattutto per la ricerca di musica nuova, perché il vinile comunque ha soprattutto negli anni che furono, aveva dei costi, aveva delle funzionalità che erano molto limitate, e invece poter accedere a un sacco di musica nuova online dicendo non è così schifoso come a volte alternativo regino vuole fare credere. Cioè, nel senso che io a casa ho i vinili, sì, però invece l'MP3 spazi, sì, però tu non sei alternativo se ti senti l'MP3. No, però sopravviverò lo stesso, la notte la supera, insomma. Alla numero 6, l'alternativo regina, ovviamente ha anche i suoi vizi molto importanti come il fumare, però ragazzi, mai sigarette, solo tabacco. Il tabacco, quella cosa che tu devi stare là, prepararti, rollare, girare, fare, leccare, eccetera. Oh, frate. Capisci? Non puoi esimerti, cioè sì. È quel rituale, quella magia. Non mettere quanto fa alternativo farsi una sigaretta così. Farsi la sigaretta così, Ci impieghi un'ora, quelli pratici ci impiegano mezz'ora, ti passa la voglia di fumarti la sigaretta. Non l'ho mai fatto, ma quanto ho capito l'importante è la leccatina finale. La leccatina che è il sigillo sulla tua opera d'arte rollata di lì a poco, e poi soprattutto il fatto che è confondibile con altri tipi di vizi che non stiamo qua a dire. Doppi sensi a Coco, stasera possiamo io e Andrea che li facciamo, manca solo Pusce che vi dice una cosa. Non è bello. Alla numero 5, ragazzi, anche la moda vuole la sua estetica, l'occhio della moda dalla sua parte. È immancabile dettaglio nella giacca dell'alternativo regino, le toppe ovali sui gomiti della giacca. La toppa ovale, ovviamente, di pelle, è questa dalla caratteristica tipica del giovane alternativo regino. Ah sì, perché ti metti la giacca, però questa giacca è comunque una cosa elegante. È sportiva perché c'ha le toppe sui gomiti. Ma poi la toppa, cioè non è la toppa, è quello che intendi che nasconda. Che può nascondere i segni di una scazzottata, di una caduta, di una fuga in Harley Davidson sulla statale 18 che non so cosa sia, niente cupo di meno che, quindi capisci, la toppa non è la toppa, cioè, come toppa è quello che Infatti, il problema è che la comprano già così, quindi tutto questo l'importanza della toppa. Devo strapparmi anche il maglione e metterci le toppe. Le toppe sui maglioni si usano pure. È un po' più schifo rispetto alle giacche, però l'importanza della toppa. Beh sì. Ragazzi, alla numero 4 andiamo avanti, parlando proprio di fughe e di veicoli. Il veicolo essenziale per l'alternativo regina, il veicolo a cui non si può sfuggire, è la bicicletta. L'alternativo regina, che già ha questa voglia di green, di ambiente, di fair play con la natura, lo manifesta andando in giro in bicicletta. Come già gli amici di Amsterdam, come altre città anche italiane fanno, abitualmente. Piccola differenza: a Reggio abbiamo le salite del 95%, però si sopportano, sì, perché voglio dire, l'importante è anche la bicicletta. Invece sono robe biciclette a motore. Esatto. Quelle elettriche. Ti aiutano infatti a fare queste salite. La cosiddetta pedalata, ce ne sono un sacco a perdere. La cosiddetta pedalata di assistito. Facciamo una taglia piena. Comunque è una cosa buona, perché vabbè, se regge devi usare l'elettricità, perché magari puoi fare quella salita, però per il resto va in bici e fa bene alla città. È giusto. È una cosa più che gradita. Però ragazzi, allo numero 3 è quasi delinea un po', diciamo, un'ambiguità della figura dell'alternativo regino, perché l'alternativo regino meno green, questa cosa può essere green, può essere giovane, però non è irrinunciabile il Mac. Mac come peccato tecnologico. Il Mac come... ma è come la sigaretta arrollata a mano. Perché tu... perché cedere a Windows? Cedere a quei computer tutti? Perché? Ti compri il tuo bel Mac, te lo porti a casa, e così non lo tocchi, non gli puoi fare manco mezza modifica, che non esiste. Non si blocca. Mm-hmm. Non ti scarichi i programmi craccati, lo fai lo stesso, perché sei alternativo. Se si rompe... Vabbè, secondo me il discorso è un altro. Cioè, arrivate al numero 3, dopo che ti vesti, che è top, che vai in giro in bicicletta, che è una cosa, certo, spenderai il Mac. Sì, questa dai, cosa cadi poi. È un simbolo, comunque. Più che cioè, proprio un... L'intellettuale moderno non può fare a meno del suo Mac. Alla numero 2, ragazzi, continuando il settore culturale della classifica, da cui non si separa mai l'alternativo regina, è il libro. Soprattutto scegliere il libro giusto, quello là un po' Joyce, Hemingway, quei scrittori là un po' anche traviati alla Baudelaire, dipende i vari gusti. Però il libro si porta dietro, si sfoggia anche con le ragazze, si fa vedere che c'è questa cultura. Eugenio, ad esempio, tu quale libro ti porti dietro solitamente? Baudelaire? No. Joyce? No. Hemingway? Di più. Il Mein Kampf? No. Va bene. Ringraziamo Eugenio, che questa è la sua ultima sera alla cena dei regini, perché lo licenziamo. L'ultima sera al mondo. No, dai, lo lasciamo dire. Ragazzi, siamo arrivati alla numero 1. Sì, questa ci sta tutto. Ci sta. Non mi sorprende per niente, ti dico la verità. È il secondo piccolo peccato tecnologico. Dopo il Mac non mi sorprende per niente. Però ci sta tutto veramente. Alla numero 1, il dettaglio a cui l'alternativo regino non si separa mai è la reflex, la macchina fotografica per eccellenza, la macchina fotografica più complicata per eccellenza, però anche qua c'è il fascino, c'è la messa a fuoco, l'apertura, le cose, e quindi ti permette di fare tanti effetti particolari, dare più profondità alle foto. se non le sai usare ti escono delle foto fanno schifo, orribili, però. O poi magari metti l'autofocus e quindi fa tutta la macchina, ti potevi comprare una compatta da 100 euro. Allora, dai. Le cose sono due. Può essere che l'alternativa originale, vabbè, a parte quelli che effettivamente la sanno usare, cioè esisterà pure. Sì. Esce, la foto viene male, sfocata e via dicendo, e poi dicono, però l'ho fatta con una Reflex, è un effetto voluto. Certo. Quindi mollarla sul sì, era sì, voluto. Sì. Oppure effettivamente si portano dietro anche una compattina, fanno le foto con la compattina e poi dicono, però io ho la Reflex, no, guarda, secondo me... Cioè, la maggior parte di quelli che usano le Reflex a livello amatoriale, e poi è tutto il ritocco su Facebook, su Photoshop. Su Photoshop sì. Per Facebook. Per Facebook, assolutamente. Era un lapsus. No. Per Photobot. Per Tumblr. Instagram. Sì. Tumblr. E quindi, ragazzi, quanto vi sentite alternativi regini voi? Stampi certo. Quanto? Cioè, di queste cose tu non ti senti vicino a nulla. Ma lui non è di Raggio del Gebbione. No, già. Ma posso mettere queste cose. Yeah. Alternativi reggini, ribellate, venite alla cena a dire anche la vostra. Certo. Parlateci della vostra vita alternativo reggino, condividetela con noi, portate qualcosa di alternativo reggino e commestibile da mangiare soprattutto. E poi ragazzi, commentate sempre a cena@back.it la classifica, dateci i vostri oggetti per voi rinunciabili, che siate alternativi o meno, un oggetto al quale non vi separate mai, tipo nel caso di Eugenio. La tosse. Il cappello. Però non sei dimenticato e quindi niente, non vale. Perdone. Qualcosa di posso cui non ti separi mai? Tieni. Santo cielo, pidocchi. Posso fare un invito agli alternativi? Perché? Mi raccomando, alternativi, portate tante toppe. Non esce, ragazzi, non esce. Qualcosa che senti tu. Se ne vedo una Reflex in più, ne voglio una io. Ragazzi, contenete. Un oggetto qualcosa di particolare da cui non ti separi mai. Io purtroppo il cellulare. No, vedi, è la vita sociale che mi che mi c'è. Guarda, il tuo tablet. I pidocchi. Comunque, ragazzi, un piccolo spazio musicale e ritorniamo subito. I remember the way, how back in the day, when I always knew how things would work out. A beautiful life and a beautiful wife, and I never really had any doubt. Now the neighbor's dog, he keeps on barking, and the noise he brings is bringing me down. There never seems to be any parking, so I think I'll just keep driving around. Well, let's go out tonight. We can make a beautiful sight. Well, let's go out tonight. 'Cause now is the time. Oh, now is the time to make things right. Well, look at me now, ain't it funny just how my little plans didn't seem to pan out. I spend all my days running round in a maze, and there never seems to be a way out. The talking heads, they keep on talking, and the news they bring is bringing me down. I guess that I'll just keep on walking, and I'll keep the world spinning around. Well, let's go out tonight. We could make a beautiful sight. Let's go out tonight. 'Cause now is the time. Oh, now is the time to make things right. keep on mocking, and their attitudes are bringing me down. I guess that I'll just keep on rocking, and I'll try to turn the whole thing around. Let's go out tonight, we can make a beautiful sight. Let's go out tonight, 'cause now is the time. Oh, now is the time to go out tonight. We could make a beautiful sight. Let's go out tonight, 'cause now is the time. Oh, now is the time to make things right. To make things right. To make things right. To make things right. To make things. Ragazzi, allora c'è una delle regine, anche per questa settimana è andata, noi raccogliamo queste cose e ce ne andiamo a casa, ma voi continuate a seguirci, a guardarci su YouTube con i video delle puntate, ad ascoltare il podcast che è liberamente scaricabile dal sito di Radio Abawalla e scriverci a cianadechiocciolabac.it. Venite a trovare anche su Facebook il gruppo La Cena delle Regine dedicato alla trasmissione, insomma. Penso che anche questa settimana un paio di argomentini simpatici li abbiamo portati a casa. Vi aspettiamo come sempre la settimana prossima, Radio Abawalla il giovedì e il venerdì su YouTube e in podcast scaricabile. Ragazzi, un saluto a tutti dal Bacche e dai ragazzi della Cena dei Regini. Ciao ragazzi, ciao.